piace molto pure la zona del mare, sia dentro che fuori, sia sott'acqua, che pescare anche dalla scogliera, dalla spiaggia. Mi rilassa molto. Poi ieri mi ha goduto proprio fino all'ultimo raggio di sole, infatti ho fatto una diretta ieri sera, proprio finché il sole non è scomparso lì. Da brivido proprio. Sai com'è andata ieri? Io adesso ci devo tornare, dai, sono 2 anni che non ci vado, ma mi metto gli stivaloni di gomma. Quegli stivali li ho pagati una barca di soldi, quelli da pesca proprio, che sono imbottiti per l'inverno, ce li ha presenti, si può togliere imbottitura, la valle, eccetera. E li ho comprati da Sportland a ripunti. E li uso molto per quando non mi voglio sporcare i piedi e cose. Specialmente adesso che non voglio che mi entri sabbia, uso quegli stivali lì. Poi io in macchina ho le scarpe, quando arrivo alla macchina metto gli stivali nella busta, li lavo bene, c'è un bidone d'acqua, sono tutto attrezzato, li lavo bene, li metto in una busta e mi metto le scarpe normali. No, anch'io, infatti, quando sono in spiaggia mi porto anche gli stivali, non quelli altissimi, no, però ci vogliono, quando lanci per recuperare qualche 10 metri in più. Frutti quando rientra al mare ti fai il lancio. Ieri benino, dai, non è andata molto bene. L'altro giorno invece sono andato meglio lì a Coscia di Donna, ho fatto una bella pescata. Ieri qua così, no? Molta minuttaglia, poi avevo, non ho trovato l'esca che uso io, quindi ho trovato dei gamberetti che si scioglievano subito a contatto con l'acqua, per carità, quindi una toccatina di un pescetto da niente mi mangiava tutto. Comunque con qualche salago l'ho preso, qualche occhiata, è tutto lì. Anche l'altro mio collega aveva 4-5 cani a fondo, nulla, anche lui poca roba. Ci siete andati ieri l'Argentina? Ieri eravamo sì, a Porto Palma se eravamo ieri. Lì io non ho mai pescato bene, no. Sono andato qualche volta, 2 volte mi pare, no, non c'era nulla, una volta abbiamo trovato un mare che non si poteva nemmeno stare. Mi ha buttato la canna in acqua a casa e me l'ha portata via. Io lo stavo parlando, ma ne sono manco accorto. Beh, sinceramente, forse no, una volta ci avevo pescato bene anche lì. Però mi piace più lì a Monte Ruginoso, Coscia di Donna, lì mi piace più. L'altro giorno ci mandavano addirittura a mare di dentro perché c'era vento da contrario, diciamo che veniva da Patamona verso Stentino, quindi per avere un po' di onde siamo andati lì. L'altra parte era calmo proprio. E poca roba, alla fine abbiamo preso una leccia da un chiletto, ma niente di che. E vabbè, già ci sta, una leccia a stella. È una leccia, sì, una leccia a stella. Infatti, aiuto, andiamo, tanto se ci sono le lecce, è sarà che non ci sono più, poi quelle vanno anche in branco. Vabbè, la leccia a me non piace, è un pesce asciutto. E infatti, pensavo fosse una spigola, invece alla fine era una leccia. Una volta l'ho fatta in forno con la vernaccia, tutta fatta bene, però la carne asciutta è come il pisalo, così è una carne molto asciutta. Cioè. Bisogna cucinarla proprio il minimo indispensabile, se lascia un minuto in più, diventa stopposa. E poi qualche bel sughetto ci vuole proprio per ammorbidire, per inzuppare la carne, se no non si impara. Gli ho messo la vernaccia, un po' di succo di limone sopra, io lo condisco bene il pesce. Ma adesso sto mangiando molto bene anche il pesce surgelato. Mi prendo quei filetti di merluzzo, me li faccio con i capperi, pomodorini di quelli ciliegina e un po' di origano sopra. La giacanta è buona. Come si chiama? Ma pizza io, va? Esatto. Ok. È buono, è buono. Una volta abbiamo fatto le carpe, addirittura abbiamo preso un po' di carpe lungo il fiume, via San Giorgio. A Tula avevamo preso, nel lago di Covina, di Tula. E le abbiamo portate al lavoro, questo mio collega che era ex cuoco, lì lavorava lì alla Pellosetta, a Tentino, e detto, le cucino io, le ha fatte, le abbiamo messe prima a marinare, tutta la notte, e poi le ha fatte in un forno a legna che è di una cantoniera, con pomodorini a pezzi dentro, aglio, prezzemolo e vino bianco, ma ti dico, non sembravano carpe, sbagliare ricciole. Invece la carpa l'ho fatta così, io ho un amico che aveva il freezer pieno di carpe, perché ci ha fatto la licenza, dice che il fiume è un bel facile, il mare non li piace, in fiume dice troppo facile pescare. E ha detto praticamente che questa carpa addirittura gli ha tirato la canna nuova nuova in acqua, e si è tuffato per prenderla, e l'ha acchiappata, cazzo, l'ha preso una carpa di 4 kg, roba del genere. E ha detto che aveva il freezer pieno, mi ha telefonato già, ne ho preso 5 stasera alle VUI, e non le carpe non mi piacciono, gli ho detto guarda non ti offendere però non mi piacciono le carpe, no se ti dico come farle io mi dà la risposta, e vabbè, mi porta queste carpe, me le fa fare a tranci e mettere a bagno una bacinella con il sale tutta la notte. E poi me le ha fatte friggere come il baccalà. Tu devi sentire il sapore di questo pesce. Sembrava baccalà davvero. Sì, mia madre, mi ricordo, da piccola faceva così, a trance. Ci metteva anche l'aceto, però mia madre. Metteva a marinare sale e aceto. E poi le sciacquava, le asciugava a pezzi e via. E la mangiavamo. Noi andavamo prima a pescare da piccolo allo stagno di Patamona, perché io abitavo lì vicino con mio padre, e ne abbiamo preso lì belle bestie, altro che 4 kg. Comunque anche a me una volta, non a me, a mia moglie, l'ho lasciata contro le canne, io sono andato al bar che c'è lì a Tula a prendere, mi sembra, qualcosa da bere o per mangiare. Al rientro l'ho trovata terrorizzata, la canna era a bagno, però ci vedeva l'impugnatura della canna, galleggiava ancora. Quindi ho messo un'ancoretta con un piombo in un'altra canna e l'ho ripresa, e c'era una bestia attaccata. E vabbè, sarà come una volta che siamo andati a Monocatania, ho messo 3 canne e gli ho detto a mia moglie, controllami le canne, guarda ci sono i cucchiaini in tira, quando vedi il cucchiaino che si muove vuol dire che sta mangiando. E io sono andato a rascarne un po' di cotte dal molo, no? C'avevo il raschietto e il coppo per lanciare un po' con le cotte in terra. E sono gudurrato e vedo una canna col cucchiaino attaccato al mulino, e ho detto ma l'idea si è mossa questa cosa, ho sentito blim blim ma non ci ho pensato, cazzo prendo il coso, cazzo me l'ho attaccata, ma com'è non se l'ha staccata? Bella, grossa? Un chiletto sarà stata, un chilo e due, là. Non era grossa, però, cioè, è meglio di un pugnaucci. Beh, già, un chiletto già bella, adatta. Da mezzo chilo in su inizia già a essere bellina, Sì, sì, sì. E da mezzo chilo, da 800 grammi, 900 grammi, ne ho preso tantissime io. Amolo Cattaneo, al molo di Porto Torres, lì. Ne ho preso tante, specialmente dalla sera, dalle 7:30 in poi. Ne ho preso varie. E le mettevo dentro questo shaker, tutta la gente andava a guardare sempre. Ma tu sempre le pesche? Io sto pescando come gli altri, non è che ci metto niente per attirare. E sto pescando e vengono. E l'esca molte volte è l'esca che... Io usavo americani, sono sanguigni gli americani, e li mettevo il verme intero, non è che abbaidavo a risparmiano. Verme intero che sbuca un po' di modo che scodintoli, lo vedono muovere. E non date l'onfia a me, qui massaggia da bui magna, se non si sente pungere. È un bel onfia. Sì, aspetta che controllo una cosa. Sì, no, il verme vuole intero. Poi come dici tu, l'americano è molto, molto, come si dice, diciamo, attraente, mi comesca, c'è molto sangue. Quando non ti moschicheggia, il coreano moschica di più, ma anche l'americano, ma tu mosso una volta, cazzo, è stato 3 ore col dolore al bico. Ma hai detto, una volta aveva appunto una ragna, le piccoline, non me ne sono accorto, stavo togliendo le alghe dagli ami, cazzo per Aeda, minchia, inizia il suo dolore dal mignolo, mi ha preso tutto il braccio, ma non ho mollato, però sono rimasto tutta la notte lo stesso. Ora, una volta sono andato a Platamona a pescare e ho preso una bella ragna, bellina, non era brutta, era bella grossa. E io, siccome c'è il moschettone, ho staccato il moschettone con l'amo e l'ho buttata vicino alla canna in terra, perché non mi volevo far pungere, ho detto prima grippi, da butti poco, no, e prendo la busta e ti metto dentro. cosa fa? Queste donne che raccolgono le conchiglie, invece di passare larga, vedono la canna, ci passano sotto. Questa lagna cosa ha fatto? Si è sotterrata, te ne immagini. Questa ci ha messo il piede sopra e comincia, ne è un delinquente, ha fatto. Detto, ma lei scusi, cos'è? La sorella di Fantuzzi, con tutta la spiaggia che c'è, va a passare proprio se c'è il pesce. Minchia, poi quando ci metti tutto il peso sopra, la spina proprio arriva fino all'osso, cavolo. È successo a mio cognato, lo siete, mamma mia, ogni dolore. Però a bagno, lui stava camminando nel bagnasciuga. Lei, quando tu ci passi sopra, lei subito alza la spina, no? Quindi gli si è complicata fino al midollo, mi ricordo, gli aveva fatto un buco anche sotto il piede. Hanno le tre spine sopra, poi c'erano delle branchie. E loro si sotterranno, lasciano solo le spine fuori, dritte, con quell'affare nero tra una spina e l'altra, sono micidiali. Se ti pungono una mica via l'hanno punta e si sono attrappiti tutte le gambe, le braccia, tutto qua. L'ho presa in braccio e l'ho portata subito, eravamo vicino alla rotonda, l'ho caricata in macchina, l'ho portata alla rotonda, gli hanno fatto un'iniezione. Gli ha detto guarda che dolorosa, ti devi coricare. No, no, la faccio in piedi, io non sopporterò il dolore perché non sarà mai più forte di questo. A grida, cazzo, ma dolore, non riusciva più a camminare, capito? Poi piano piano, come gli ha fatto l'iniezione, ha cominciato a riprendersi. Sì, anche a me mi ha preso piano piano, dal minimo è partito, mi ha preso tutto il braccio, mi ha preso. Poi piano piano è passato l'effetto. Anche le meduse, qualche volta ho preso ustioni da medusa, mamma mia. Anche quelle già sono brutte, vissute. Però se ti punge la razza? No, quella non l'ho provata. L'ho presa, sì, lo so, col fucile, quando facevo pesca subacquea. Però mi è andata sempre bene, eh. Ho preso una di razza che era enorme, c'aveva la merma attaccata sopra, cazzo, immaginati la merma. E quando l'ho tolta fuori tutta la spiaggia si è avvicinata, ha detto allontanatevi perché questa qui c'ha una spina velenosa dietro, ma è la coda. Prima che io gli tagli la spina allontanatevi perché se si gira con la coda vi punge, sono cavoli vostri. E una e te la pazzira in Eva, tanto non sapevo fare noi, e chi te l'ha detto a te che non lo sappiamo fare? L'ho portata a casa, l'ho fatta a tranci, l'ho bollita, per metterla nella pentola l'ho dovuta per forza tagliare perché era grande, l'ho bollita un po', gli ho tolto la pelle di sopra e poi l'ho fatta col sughetto piccante, e se veniva a mangiare ci avrebbe recato i baffi. Allora, è tagliata la zerolina, non è la morte sua. E poi prendiamo anche quelle che danno la scossa, come si chiamano? Beh, non mi viene adesso, per sempre tipo razza, però quella che dà la scossa, non torpedine, non mi viene adesso, dai. Ho preso la torpedine, gli ho ficcato il coltello sul macro che ce l'ho sempre appreso quando vado a pescare. Gli ho ficcato il coltello sul macro in testa, non sai che l'ho portata a casa ed era ancora viva dopo ore. Col coltello conficcato, cazzo, l'ho messa nel lavandino, cazzo, si è mossa, ho detto, balla, io ti lascio in occhio fino a domani a mangiare. Ma è tipo la razza adesso, quella lì, che rimane verde? È a puntini, rimane a puntini. Aspetta, ce l'ho fotografata, se la becco te la faccio vedere. Perché ce l'hai il mio numero? Ah, non ce l'ho. La mia dava la scossa, ma no, prendevo l'atta del fucile, no, era conficcata e sentivo i colpi che proprio tan tan della corrente ti veniva da mollare, capito? Ora, tu una volta ero vicino a questo ragazzo pescando, questo ragazzo pesca un pesce e non capiva, tirava, cazzo, non capiva da dove cavolo proveniva. E io gli ho detto guarda che quel pesce sta volando. Come sta volando? Cazzo, volava questo pesce. E sono passati dei pescatori con un gozzo, no, fai mochi se vieni in uso, guarda che se ti musicheggia chi su, sono affari tuoi, hai gente che farò io e l'ammazzo, anche se no se ti morsi che quello è un bel velenoso. E c'aveva la faccia tipo pipistrello, un bel brutto. La gallinella, come si chiama? No, la gallina non la conosco, fa Una volta l'avevo pescata questo amico mio, io pensavo che fosse lui, ha detto io non rompere, ma no, sono io, te la per il pesce. Che il grongo mi fa quel rumore lì, quando lo peschi, fa un rumore strano. E molti pesci fanno rumore strano. Italia. A Bottondorra mi conoscevano tutti perché ci andavo qua giù in cielo, ci potevo lavorare e andavo a pescare. Ma lo sassarese giunto qui a fratti rubescio, 15 anni. E vabbè, vabbè. Una di so cantate c'è per bocconi. E chiedo, e beh, mangiato sta, oh, siamo tutta la di nocchi, non ha mangiato nulla, ma nulla a me, non tocca nulla, e vabbè, e cosa fai tu come esca? Te bocconi, mi, li ho presi, li ho comprati dove lavoro, e ce l'avevo in pescheria, e erano freschi, li ho presi, piccoli femminella. Beh, fatto sta che metto, inserisco i bocconi, lancio due canne lontano e una l'ho messa a pelo di banchina, sempre col cucchiaino col manico piegato per sentire il segnalino, e sento drin di goi, ha giubilato la canna in mano, guardate, le ho dato subito la ferrata e sento questa cosa pesante e gli ho detto, c'era uno vicino, ascolta, lo prendo il colpo che ce l'ho lontano, guardate, mi viene male aperto, sì sì, già sto venendo e tardava a venire, no, apposta per farmela aperta. Allora sai cosa ho fatto? Ho mollato un po' la frizione, sono andato, mi ho preso il colpo e me la giugò padella, sai cos'era? Una tanuta. Ma bella mi, cazzo, no, ma tu cazzo vieni tutto cazzo, questo è un pesce di altura, cazzo, come ti hai fatto a pigliarli no? Quindi invece è passato perché sapeva che venivo io. Quindi le tanute le prendiamo lì a cosa? Beh, sarebbero in stasera si chiamano la cantara, le cantare. Da chilo lì le prendiamo a mare di fuori, spesso e volentieri. Poi sono belle perché hanno la schiena grossa, minchia come un maiale. E sono tipo saraghi scuri però sono. Ma poi insomma sì, ci sono combattenti mi. E a cazzo poco dire. Ti sto dicendo che era un bel pesante quella che. E sarà stata 1,2 kg, una cosa del genere, era bella grossa. Cazzo erano tutti gribenni, cazzo, proprio quelli di casa si è segnati a bicchiare i nobili, le vostre durri. Ma è che noi usiamo, no, a volte dice, lente sottile da 0,14, quando va a sollevare la volta, perché noi siamo in scogliera, spesso e volentieri si spezza la lenta e la perdi. Sono 0,35 di lente. A me già non me la spezzano, poi io c'ho Fendrel, è una lenza elastica ed è favolosa la Fendrel. No, noi andiamo sempre sul sottile, dai, diciamo, lasciamo molte possibilità anche al pesce di scappare, se è possibile. Non usiamo roba grossa, dai, lente sottile. Oh, e se va a pescare il pesce ti devi arrivare a casa, non è che... No, a parte gli scherzi. Io, guarda, ne ho pescato lì a Porto Torres, ho preso certe trine con certi baffoni, ma allucinanti, sempre con l'americano. Ho usato qualche volta il bibbia e il coreano, ma poche volte, di più l'americano. Dipende, una volta va bene, anche il bibbia, qualche bella volata con il bibbia l'abbiamo presa, anche io con il coreano, con la cozza. Dipende, quando si va a attaccare, no, ma io uso pochi grammi, 2-3 grammi di piombo, quindi devo usare lenti sottili, si devono muovere bene nella corrente, se usi lenti più grosse è già più difficile, è più sospettoso il pesce. 35 grammi di piombo scorrevole, però io pesco a fondo. E lì invece con la schiuma, al massimo 4 grammi, dipende, dai 2 ai 4 grammi massimo, forse più grandi sono 5 grammi, a volte li fai la spallinata oppure metti il piombo unico, dipende dal tipo di mare che c'era. Sì, no, ma la pesca è bella tutta, io ho fatto pesca subacquea, ho fatto a volte, diciamo che prima ero più appassionato di pesca subacquea, c'era tutta l'attrezzatura, andavo a pescare, ma non è più nulla. No, io vieni a pesce, caspita, non c'è più nulla. Io, vabbè, il fucile non lo sto più portando, però mi faccio un po' di polpi d'estate, prima andavo anche d'inverno, però il pesce già lo vedo che c'è, il pesce c'è, caspita. Poi ho amici anche che ne prendono pesce, specialmente lì a Mare di Vura, oh yeah. Le zone dove andavo io sono tutte state battute troppo, capito? Io conoscevo l'Italia una a una, sapevo dove c'era la seppia, sapevo dove c'erano i pulpi, sapevo, la conoscevo bene la zona, capito? Quindi andavo quasi a colpo sicuro. Le seppie stavano in una tana che c'era tra la roccia e la sabbia, scavata sotto la roccia, c'era la sabbia e vi stavano le seppie. E ne beccavo anche due in un giorno, stanno sempre in coppia qui le seppie, se spari una c'è anche l'altra. Dipende dal periodo, in primavera mi sembra che si accoppiano, infatti se ammazzi la femmina e il maschio rimane in zona, se spari il maschio la femmina se ne scappa invece. Per non annoiarmi a Porto Torres, quando mettevo le canne, a volte non mangiavano, e per non annoiarmi avevo fatto una cannetta piccolina con un mulinello piccolino, la lenza fina, un piombino piccolo piccolo e con la tottarara, e mi mettevo a tottarare. Prendevo un casino di seppie, anche 12 ne ho preso, belle, e facevo il riso con le seppie, buono e buono, le seppie fresche fresche. Poi deve essere che io una volta me ne è caduta una di seppia e ha buttato il nero in terra. Come hanno visto il nero hanno capito che lì era a posto di seppia, hanno cominciato a venire niente, andavo che era sempre pieno di niente, di che di beccare seppia. Sì, adesso diciamo qualche calamare, forse lo stanno già prendendo, però dalla barca, ma qualcuno prova anche da terra, da qualche scogliera alta, ho visto che prova a lanciare l'artificiale e li prendo anche da terra, calamari, seppie. La pesca al calamare è particolare, io praticamente le metto la luce nel coso, siccome è fosforescente, tu li metti la luce e scende luminosa la tottanara, di modo che la vera. Anch'io le metto qui, quasi tutte sono fosforescenti. Quando la porti su te la avvicini alla testa, alla pila che c'è in testa, no? La carichi e poi la fai scendere giù, anche il piombo addirittura è fosforescente, è rivestito con quella plastica verde che si carica anche lui, no? Sai come è meglio caricarli quelli così? Con il flash della macchina fotografica e quelle vecchie. Ti dà un colpo di flash e cazzo rilascia la luce per un bel po', la vedi anche in acqua mentre scende. Sì, vabbè, noi ci portiamo anche la macchina fotografica. Al massimo abbiamo il cellulare, possiamo usare il cellulare, il flash del cellulare. E vabbè, qualcuno comunque ce la prendiamo sempre, ma intanto ce la facciamo, dai, ogni volta che usciamo. La macchina fotografica, no? Il flash, quello che si usava prima che adesso non serve più. Mi carichi quel flash lì, mi dà un colpo, lo fa illuminare un bel. E poi vabbè, già si sanno i posti, basta andare lì alla chiesa di Balai vicino, sotto lì, che ci sono i fari, illuminano il mare, è sempre pieno di calamari. Aspetta, una bassa. Appaga. Qualcuno qua sul 10 gabbia. Eccoci, sì. Non mi sente, sono troppo basso. Gianni? Chi è che vuole entrare, che sta mettendo portante? Perfetto, o sbaglio? Se non è cerchio sarà un quadrato. Sicuramente. E beh, se tutti scomparsi, prima c'era un bel questione, mi allontano perché mi chiamano e non c'è più nessuno, è fatta apposta. Ma lo poverito c'è ancora? Vabbè, non c'è più nessuno, sto parlando con i muri, da. Ora. Buongiorno Italia. Giorno Maria. Radio Maria. Ciao. amico di New York, come c'è il tempo? Signor Vicky, lei è. Ah, cosa hai detto? Signor Vicky. No, sono Giacomino, Robertino Giacomino, poi cos'è altro? Ricky Martin. Che bello qui come nominativo, perché non ti metti Ricky? Boh, perché il babbo era il 21 e così perché gli stavo proponendo alcuni nominativi a vedere com'erano e molti erano che avevo immaginato erano brutti e così ho preso il suo nominativo. Potevo chiamarmi anche Alfa 22, però boh. Vabbè, ma non potete avere un nominativo in due, devi avere uno tuo e uno tuo padre. Oh, amiche, è come le navi, se gli cambi il nome e poi vanno in disgrazia. Sì, K. Che ore sono, Riccardo? Io devo andare fra poco, Avvisami alle 8 che devo cucinare la roba per il cane. Gappa, sono le 8 meno 20, le 19, per essere precisi 19.42. Io ci siamo mangiato una coscia di pollo col pezzo attaccato, più la pasta, tutto si è sbaffato, ha lasciato la ciotola lucida. Pensa che io quante volte non mangio pollo e sai cos'è, lo mangio tutti i giorni, ci sarà anche stufato. No, non tutti i giorni, gli do anche altra roba. Gli do i reni di cose di vitello, gli do i granelli, gli do fegatini di pollo, stomaci di pollo. No, già lo alterno la cosa, io li do riso, li do pasta. Ah, cappa, va bene, continuate un attimo, scusa. Beh, dai, tanto sto chiudendo, dai. Io fra poco devo andare, devo fare la roba da mangiare e portare giù il cane, capito? Attenzione, se ascoltate, Alfa 21 che parla, roba. Gianni è scappato. Gianni doppio room, forse così mi risponde. Riccardino! Gianni, vieni avanti! Sì, sono scappato! Rappa. Aspetto, Riccardo. Cioè, prima cerco a tutti, poi mi chiamano. Io ero al telefono. Master, Fabio, un'ora di bassa. Anch'io ero, stavo suonando il basso anch'io. Oh, andiamo, vai, andiamo. Aspetta, cosa ha detto? Cosa, Fabio? Cappa, in bassa siamo, non ho capito. Sardi, sono tutti bassi. No, tutti in alta siamo. Ti ho detto Riccardo, ti ho visto l'altro giorno, non mi hai salutato. Non ti ho riconosciuto. Ho visto il cartello americano, ho collegato la situazione, ho pensato che fossi tu. Dipende da che macchina era. È una specie di camper, non so se è trainato da un pick up, tipo camper, dai, una cosa del genere, con semi americani e cose varie. Stavate rientrando, diciamo, qua in Via Sicilia. Ah, la so io quella! Sì, eravamo col camper zona argentiera, ma non ci stavo neanche pensando, stavo leggendo. Io stavo rientrando a casa e voi siete passate. Dopo un po', infatti, mi sembrava accesa anche la radio, ti ho sentito in radio. Che avete il camper caricato sul pick up? Sì, praticamente il pick up lo metti sotto e poi alzi praticamente dei pistoni automatici dai telecomandi e così poi la carichi sopra e poi parti. Forte, tipo la cellula. È una cellula abitativa. E come la fissate sopra? Con dei ganci che portano, praticamente nella cellula c'è un gancio e poi anche sulla macchina, praticamente dove c'è l'attacco del gancio traino, si mettono due bastoni, come dire, bastoni, due pezzi di ferro forti, e così poi dalla cellula li leghi alla macchina con delle catene, tutto, e così è fisso, non si muove. Comunque bella Fabio. Lasciate che sia stabile, che non ha aperto il cammino. Fabio! Ciao, sono qua, mi ha preso la foto della macchina nuova, un amico. Bellina, una BMW. Mi piaceva molto quella foto che mi hai mandato. Comunque, meglio se la commenti su WhatsApp, la foto che ti ho mandato prima di quelle tue. Mi dite dove muso la Fabio, che non lo sento. Calvino, ce l'hanno il tuo numero di telefono, fra. Chi è Calvino? Riccardino. Ah no, negativo, no, ce l'ha. Beh, Lupo Grigio ce l'ha il mio numero. E poi ce l'ha anche Claudio, eh. Vabbè, dai. No, perché se te l'avrei mandata quella razza che ho preso, quella Turfi. Fatelo dare a Claudio. Ditemi dove muso la Fabio, che non l'ascolto bene. Comunque, marrone a chiazze nere, a puntini neri, ma puntini larghi però, a pua. Ho capito, poi già me la manderai appena trovi il numero, te lo fai dare a Claudio, te l'ho detto. Aspetta, ditemi dove modulo a Fabio per sapere la zona che deve essere negativa per me. Zona Fabio, modula zona Pomponio, dai. Cavolo. Però Pomponio arriva forte qua, forse hanno diverse antenne o diverse altezze, buh. Sta uscendo con la Turbo 2001 Fabio. Ciao Fabio! Ciao caro, ma come hai sentito così? Che stazione è questa? Questa qua è l'Alan 48. Aio, vedi più barattino serio, quello ho giocato con quattro manopole. Oh, Fabio, scusa, Gianni. Chia? Quello lo stai dando l'Alan? Sto vendendo, sì. Ah, caffa. Oh, stavo leggendo i commenti, ci sono quelli che hanno chiesto il prezzo, per favore. Già l'ho messo. Ma me l'ho rimesso in stazione perché non voglio un regalo, al regalo non ne do io le cose. Anzi, lo sto sotto, sto vendendo molto meno di quello che ero pagato. Quanto hai messo già, ti può dire? 3,50. 3,50? Appa. E invece quanto lo voglio loro? 100. Costa molto l'elaborazione, così. Ci sono qua, ho speso 450 euro in tutto io. Tra apparato e componenti. Ma questo qua è super, si illuminano tutti quanti le manopole di blu, lo smitter di blu e i canali di blu. Poi quando schiacci la portante si fa tutto rosso, tranne il canale e lo smitter, che rimane blu. Tutto il resto diventa rosso. E Blatter le prende? In casa sì, in casa le prende. Quando c'è gente vicina nei canali che è troppo forte si sente. Ma adesso stanno parlando sul 23, non senta nessuno, la verità. L'unico pecca, diciamo, è un peccato. Deve essere un ricevitore molto sensibile. Perde un po' di colpi. Peccato davvero, se no sarebbe stato perfetto. Un bel apparato, Fabio, perché male mi senti? No, ma sono abituato male, capito? Perché con la apparecchi arrivi meglio in questa segnina di fil di ferro. Guarda, 1, 2, 3, attenzione Fabio, mi ascolti, gambi. Attento Gianni Doppio Room, se mi ascolti, gambi. Fabio Master! Mettiti l'antenna! Fabio Master, guarda i messaggi! Kappa, Gambio Gambio! Adesso devo trovare, ce ne avrò un baracchino con l'eco che così posso fare le voci. Tu sei caldi, comprati questo. No, scusate, ma io a me non un po' così all'an 48. Adesso vedo già. E anche l'Upen sopra. È fatto proprio per ragazzini. Addirittura, full optional. Esatto, cioè è ricoperto tutto con l'Upen. Erika, questo ti manca, eh? Dalla 48 mi manca, sarà una tragedia. No, lo vendo così, se no non ne vendo, di meno non lo do. Chi lo vuole lo paga così, se no io ho speso 450 euro. Ehi, ci sono quegli appassionati già, sono quelli che lo vogliono quella cifra, l'ho visto in vendita così. Ci sono quegli appassionati che vogliono quello. Trovarne uno, glielo dai. Fabio, commenta la foto via WhatsApp, capito? Adesso sto dicendo con un fatto e mezzo, pensa a Fabio. Molto bellino. Fabio, mi ascolti adesso, stavo uscendo con un fatto e mezzo. Bene, bene, allora, mi sa che se attacchi tipo un alfalima mi sfasci lo smitter. Ma questo alfalicchio qua, da quanto fa a quanto fa? Aspetta che te lo scrivo. Fabio, adesso meglio mi senti, guarda, 1, 2, 3, prova, cambi. Capito Fabio, fa col raggio. No, staccato, molto carino però, Sì, mi piace molto anche quello, comunque. Adesso, come adesso, però devo trovare una cosa per essere a livelli di doppio room. Un barattino che ho qui, sicuramente stazione ce l'avrò, che ha l'eco. Riccardo, comprati una camera eco direttamente. Oh, l'eco colte, il migliore, Riccardino. Massa, 35 sovramodulazioni. Cosa hai detto, Franco? Che ti puoi mettere una scatola, una camera eco, buona, una Daiwa, che così lo puoi attaccare a qualsiasi apparato. Scappa, devo vedere, sì, lo so, gira, quando giro trovo tipo scheda eco colt 12 euro, oppure trovo scheda Roger Beep 24 euro. Ma lì puoi tenere fare montare, invece la scatola ecco, stacchi il microfono, attacchi il cavetto e il microfono attacchi la scatola e stai già modulando. Ah, capa, ho capito quale stai dicendo. Quelle esterne, ma di buona qualità, Sì, sicuramente non quelle giocattolo ZG. Capa, che poi ho avuto anche la ZG e non andava poi così male, poi si è bruciata, ma ce l'avevo tanti anni da ragazzino, non dico l'età tua, forse qualche anno in più. Io le ho avute le camere ecco, le ho avute di tanti tipi, ma non ecco come questo, manca a sognarselo, non è quello che piace a me, perlomeno. Sì, si possono adattare, le ho avute io, le ho avute, ne ho avuto diverse, ne ho avute anche buone, però ce n'avevo una addirittura che aveva il distorsore, che quando usciva male andava sul rosso, poi c'era verde, giallo e poi c'era il rosso, quando distorceva e disegnava tutto, capito? Andava molto bene, molto, molto bene. Tante d'oro. Forse sto disturbando io, dai, e non chiudo questo apparecchio. Dai, ci sentiamo ragazzi, statevi bene. Buona serata, buon tutto, buon fine settimana. Ciao! Ciao caro! Ciao Gianni, buona carica per te, John e a te. Ci sentiamo. A dopo Riccardo. Ciao anche a te Fabio. Anch'io, allora vi saluto, forse faccio una carica veloce così posso stare tutto il tempo in radio. Mangio una cosetta così poi non devo mangiare tutto a cena. Cappa, ciao Riccardo, buona carichetta, veloce dai. Ciao Franco, saluto tanto, arrivo in fretta, faccio in fretta, saluto a te, a Fabio, a Doppio, a Tyson e agli orecchi di porco. Ci sentiamo subito, arrivo subito. Ciao anche a Fabio, anche se non lo ascolto bene, ciao. Peppa, sì, attento Peppa. se si è messo l'antenna sul palpetto o mi sbaglio? Sì, ma ho capito, dov'è? Come ti hai messo l'antenna sul palpetto? No, cazzo, no, tu sei così, non ho detto di no, sempre quella. E spiegami perché arrivi sempre con quasi nove adesso. Cos'è l'acqua ti fa bene? Se ti fa bene l'acqua ti mettili una, come si chiama, un bidone d'acqua da 20 litri attaccata all'antenna. Cazzo ne so io, ci sei una piatta. Mi sto dicendo, sei quasi Santiago 9, non ci sei mai arrivato qua, arrivavi 5, qualche cosa, ma sei quasi 9. Secondo me tu ci devi mettere il bidone dell'acqua lì vicino. Lo innaffi l'antenna ogni 10 minuti. Andare. Sempre quella è l'antenna, opa. Ma sto dicendo, adesso stai scendo bene, sei quasi segnale 9. La radio passa, Radio 5 apre ficcata. Andare, dai, va bene, va bene, va bene. Se va bene, sì. Che radio stai usando tu, Antonio? La 87. Andare, ma la cosa non ce l'hai più, la Galaxy. Il Saturn Echo, già un giorno avevo vinto su 150 euro. L'ha già regalato in pratica come prezzo. Cazzo, l'ha regalato sì, quanto l'hai venduto? Perché l'avevo riparato, ho usato 5-6 mesi, cioè avere 56 baracchini e non farle girare mancuno mi faceva pena, hai capito? Quindi allora ho preferito recuperarmi 150 euro e basta, hai capito? C'è l'857 che costa mezzo milione, anzi ho pagato mezzo milione ma le vale 1000 passa, già lo sai, quasi in banda, non è un cicafuso. Già lo so, non so che costa, c'avevo anche l'817 io, pensate sempre della Yaesu, sono radio che costano, sono radio che costano, ma poi per la frequenza che è, non ne vale più spendere tanti soldi per che cosa, ma... Sì, vabbè, appunto per quello. Mi sono divertito con 150 euro, la verità. Non è che mi sono pentito, mi sono divertito. Avere 50 baracchini e... cioè, stare girando, rigirando tutti i giorni, usa uno, poi usa l'altro, se si guasta uno, poi si guasta l'altro. A un certo punto, siccome andiamo più di 7, io ero in vazio. Nulla, ma non faccio niente. Ehi, vabbè, non so esatto a me, però la Galaxy per 150 euro l'è regalata, se era perfetta, se era in buone condizioni, l'hai regalata. Io sinceramente non l'avrei venduta per quel prezzo lì. Se avessi saputo il Covid-19 l'avrei venduto, non sai quanto costa la Mantova? Lo mi sai ieri, 300 euro costa la Mantova Turbo. La Mantova 5 ne costa 350, poi la Mantova 5 ne costa mi sembra 200. Ma se non la stanno più fabbricando? L'ho visto ieri, sui B. La Mantova sembra che l'abbiano messo in sale, capito? Io l'ho pagata 120, mi sembra 140 euro, non di più. 300, 350, un'antenna di baracchino, dove la fai? Usato nuovo. Nuova, non usato, nuova, guarda sui B, guarda, Mantova turbo, Mantova 1, ci sono, c'è anche la 5 addirittura. Guarda che pezzo. Avevi detto che non la fabbricavano più, io ho sentito così. Io di Santo Io non l'avevo pagata per un'antenna, ma quando mai? Guarda che ho guardato ieri io mi, su Google. Ho scritto eBay, Mantova, ho scritto Mantova Turbo, oppure Mantova 1, ne sono passate tutte e tre, una 300 euro, ho detto questi sono esauriti, che non è possibile, io non compro neanche molto una cosa del genere, ma quello per quello costa di meno la Super Lem, 140 euro. Ma non li avrei mai spesi per una Mantova 200 euro, vabbè che sono antenne che funzionano bene, grazie al cavolo, però 200 euro, sono 200 euro, Appunto. Se guardi sui B, dopo te rendi conto. Adesso sto facendo fesserie. Vabbè, forse anche se li biasmi. A me non mi interessa. Se la Mantova costa 300, quanto costa la Grand Prix? 120? senti io, e non me la, non me la costruisco con pezzi di fin di ferro, eh? Veramente quando me la rivevo da Grand Prix, cazzo, un vazio di muraia tutta andata senza diretta di telefono, mi intendi, E vabbè, una volta, adesso è diversa la cosa. Sono cambiati i telefoni, sono 1800 mi sembra, sono cambiati anche la questione della TV, ci sono i decoder, tra poco cambiano frequenza, quindi sei ancora più tranquillo. E vabbè, sono cambiati un po' di cose, sì, adesso sono tutte quante digitali, le antenne sono tutte quante centralizzate, prima erano antenne, mettevo un'antenna, come ti dicevi ti intendiamo gli addentro. Ma adesso fra poco devono, chi fa l'antennista deve fare il corso, e quando compra un pezzicatore d'antenna deve in pratica sintonizzarlo, cioè canale per canale, quindi figurati tu. E poi, a parte quello, deve scendere in ogni appartamento, fare la sintonizzazione, e c'è roba da fare adesso. Non è più come prima, non? Già lo so, pai. Adesso anche per fare lo squartino ci vuole il corso, già lo so, in ogni cosa avevo un corso. Pure un bambolino pure la giardina avevo un corso, va. Sì, quello già è vero, adesso ci vuole il corso, sì, esatto. Non c'è nessuno qua. Oh, non lo so, sto appena entrando io, anche perché stavo pulendo tutta casa, e quindi, da una cosa all'altra, è rimasto solo anche il terrazzo, ho visto che sta piovendo, sono andato anche in culo, mica mi devo fare la doccia. E io ero in campagna, sono rientrato 5 minuti fa, ha iniziato a piovere, e niente, domani non si sa, da tempo quasi. E meno male sta iniziando l'estate. A me è male che ha ciambato cosa, ha ciambato sull'estate. Non si comprende più nulla. Ti volevo chiedere, Antonè, noi c'è il tampo del coperchio del microfono dinamic. Il microfono dinamic? Che microfono è? Siccome c'ho quello con la rotellina davanti che solleva l'amplificazione, un microfono che avrà 15-20 anni. Ma simile alle M300 stai parlando tu, che c'ha lo slider? No, è amplificato solo che mi manca il tappo dove va la batteria, capito? Ah, quella batteria da 1,5 stai parlando? Sì. Ho capito. Non lo so se ce l'ho la vetta, devo controllare in mezzo a tutta quella modalità che c'ho. Se ce l'ho il tappo di dietro te lo prendi, il tappo grande, il tappo piccolo della batteria non ce l'ho, No, mi serve il tappo piccolo, che è stretto, che il tappo dove c'è il coso della batteria, dove compri la batteria. No, quello non ce l'ho. Mi sembra che c'è un tappo grande, io tappo della batteria proprio non ce l'ho. Quello lì mi è servito, vabbè, non fa niente, dai. Non fa niente. Non ce l'ho proprio quella. Mi ricordo che ce l'avevo, ma il controllo nelle varie buste, magari ce l'ho buttato per sbaglio, adesso devo controllare, allora, ti faccio sapere qualcosa domani. Domani fumo e vediamo un po', se riesco a trovarlo, vieni e te lo prendi. C'è WhatsApp tu, ti mando la fotografia e ti faccio vedere il tappo che manca. Ah, non c'è bisogno, guarda che lo conosco di là Micchi, quello che c'è la rotellina sopra, e addirittura c'è l'altro modello della Inter che c'è la rettina. Quello la rettina non ce l'ha, davanti c'è solamente la plastica, messa in verticale. Sì, è già quella, hai capito qual è. Appunto per quello. Antonè, mi serve un radiale di Mantova. Chi ce l'ha? chi è? Ciao Natale, la via di Mantova non ce l'ho. L'unico via di Mantova che me ne è sceso ce l'ho qua, della Mantova Turbo. Nella Mantova 1 non ne ho io. A meno che non te ne fare la cosa, la Ginkovi che c'ha la... Sta usando quello per poter parlare. Ti devo regalare io la via di Mantova. Ne ho 5 addirittura. Natale! Beh, Emanuele, all'hai un radiale, ma a me a farmi l'antennino. No, io no, però so che c'era, posso chiederlo, Natale. E provo a vedere che mi serve uno per farmi l'antenna, e poi mi spieghi com'è fatto tutto. No, non me l'ho fatta io, ma me l'ho fatta già non sai chi. E vabbè, tu l'avrai visto come si è fatta, no? Che deve mettere e collegare il coso della misurare con lo strumento fino a quando arriva quel tot di stazionare e ti devi filmare, boh, devi girare. Ah, ho capito, la taratura, dai. E poi lo devi fare, quando arriva a quella cosa lì, a quel livello lì della stazionare ti fermi, boh. Ho capito. Però funziona bene, io lo sto usando, grazie a Dio, metterli tutti, quasi, non tutti ma quasi. Ehi, ti sento bene anche io, più forza del normale, prima arrivavo più basso, Manuel. Perché ci ha preso un vaso d'acqua sotto? Faccio la scritta solo a leva che l'ha fatto un buon effetto. E tu attaccare un pezzo di vino e ti vogliono agganciare la leva e ti vogliono rubire a moglie. Vai a te. Che io stavo dicendo che stai usando un pezzo di filo come massa e ce l'hai messo dentro la vernice, la tinta bianca, capito? Così me lo fa massa. Un cadavere di vinta pieno d'eva, si rinfili in chivi, rubiro, vedrai, tu sei un signore. I grigi nelle mele tutta l'ora. Come ti serve un'antenna di quelle, Natale, di macchina? A farmi l'antennino, perché non ne ho più intenzione di modulare, da per ascoltare mi serve. Sì, accidenti, grazie. Scusa, prendo un pezzo di tubo di plastica, 5,50 di cavo elettrico, ti metti un PL, la massa la collega alla, come si chiama, quella staffa della parabola, e il tubo di plastica ce lo infili all'interno di quella pipetta che hai comprato. E poi sopra ci metti 5,50 di cavo elettrico, ci vuole molto, ti sei fatto un bazookami. Ma ci vuole un tubo di coso, di plastica, di quelli di elettricità per farla. Allora, un tubo di plastica in PVC, 5,50 di cavo da 1,5, da 2, come quello che cavolo piace a te. Io l'ho fatta così la bazooka, e l'ho pensata in barca, e esce benissimo. Addirittura l'avevo messa dentro l'ho portata al circolo da Ricco, la fratello di Giuseppe, ce l'ho messa sopra la cassetta della birra, e qua arrivava 9,20 Ricco. Chi è quel cuomo di Pomponio? Eia. Come Pompo? E beh, come va? Tutto ok, fratello. Già va bene. Io ce l'ho davanti alla macchina, mi hanno fatto con la staffetta della Boomerang, nata lì. Hai capito? Per la 27. Ce l'ho, ma ce l'ho di riserva quella. Ah, già me la faccio, dai. Me la faccio come hai detto tu. La misura è corretta, 5,50 metri, tondo. Fai girare intorno al tubo di plastica, ogni sfida fai 10 cm neanche di distanza e la tonciglia intorno al tubo, hai capito? E perché la massa ce l'hai già in pratica, perché la colleghi alla pipetta che c'hai fuori nella finestra, e il polo positivo è tranquillo. Boh, basta, non devi fare altro. Dica. A meno che non metti una canna pesca 5,50 metri e colleghi la massa alla pipetta della parabola e 5,50 di cosa? Di cavo elettrico direttamente lungo nella canna pesca, all'interno della canna pesca, così non si vede nulla e ti fa l'antennino per la 27 e esci benissimo. Mica. Vabbè, lo farò col tubo allora, col tubo di plastica. Ma è vero. È vero. Anche tu mi senti? Ehi. Attala, vai, c'hai le orecchie di porco. Ehi. Allora, non lo sai che sono orecchie di porco, non lo sapevo. Ma è vero. Ehi, è vero. Mica c'è il lupo. Concetta. Attenti al lupo. Attenti al lupo. Non c'è i lupi qua, Concetta. Dove sono i lupi? Che fare lupi, sale maniato, guardi si va. Nel bosco è il lupo, è sempre all'erba, state attenti. Conce, ma quel cuoco di culto come sta? Bene, si è ripreso alla grande, ha la faccia anche del cane che l'ha morsicato. Ma sempre quel cuoco. Anche lui è attento al lupo. È curto. Curto. I primi cani che trova lì ringhia tutti. Cata, un cane l'ha musicata la faccia, la canta da faccia. Poverino quel cane. È bravo. A Pablo. Lo conosco, e l'ha agganciato la faccia. E come mai? Beh, a me ne... Perché ha morsicato anche a me. Ma lui cosa ne sa? Cosa ne sa? Ha detto che lui si è avventato e l'ha pigliata a muzzichiri ai ciugani. Ma quando momento che arrasta è uno di questi cani va. Carlino. No, è Carlino. No. Come entro Carlino, però non è Carlino. Così comunque, basso così. Da voi ringhia a quelli che vanno in bicicletta, che corrono, se ti trova correndo. Oggi stava rubando la bottiglietta a uno dalla tasca. comunque anche lui già si è ripresa, là. Perché gli avevo detto che c'era il tumore lì nella vagina, ma c'era un... Insomma non sono studiati bene quelli, da una cosa all'altra, era un prolasso che andava via col tempo, no? Meno male, no? Meno male, poverina, mamma mia. Ma Luna, Luna, poverina, ha detto che si è ripresa. Ah, meno male, e cosa vuoi? Luna è piccolina, non ti va, non quello. Ti vuole poi. Luna è verginella. C'è Tommy che è libero lì. Nataloide. Mi, quel Marco c'è, ma quelli lo condo. Quel coccomane di Marco c'è. C'è anche quel coccomane di Natalino. Va fortissimo Riccardino, a casa arriva più basso. Arriva bene Riccardino. Ciao Riccardino, buonasera. Buonasera re dei coccomani. Cioè mi arriva sul più del più 30, allucinante. Più forte di te anche Natali, vabbè tu c'hai la tela un po' bassa. Vabbè. Perché qua baracchini grandi non ce ne sono. E poi me la devo tirare questa antenna, mi voglio fare l'antennino ma cucciare. Non ne voglio più rotture di scatole. Mi hanno già fatto una bella carrognata, quindi non ne voglio problemi. Vabbè dai, continuate, io vado da 25, sennò poi sta sola, dai, riprendete voi. Ciao Luca. Ciao Luca. Ciao Luca, ci sentiamo. Aug. Ciao a tutti. Come va Marco?